aspettavo, come ogni giorno al solito posto, e invece t'ho incontrata per caso, insieme a lui. Quando la sera si spengono le luci, non posso più dormire, ma penso ancora a te. Stavi con me, i miei occhi nel buio ora piangono te. Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero i miei, e invece no. Piangono te.